Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia. Abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi questo pomeriggio, un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di cose di cui discutere insieme. 800 24 00 24 è il numero verde, lo faremo con Andrea Zorzi che è qui con me. Ciao, ciao Andrea, grazie. Ben ritrovato e ben ritrovati. E oggi è tornato a trovarci da Mediaset Premium Massimo Callegari. Ciao, ciao Massimo. A tutti, sempre un ciao. Piacere. So che tu grazie. Preferisci le presenze femminili al sabato. Sava Sandir. Sava Sandir. Ma Andrea Zorzi però no, lui lo voglio sempre. Tra l'altro poi finalmente ci si vede, noi eravamo amici via etere. Sì, sì, no, sì. Mille sì, volte sì, ci siamo sì. sentiti, però mai incrociati prima. Sì, sì, sì. Tu sei sempre in giro per l'Italia, quindi... Anzi, dove sei oggi? Cosa ci racconti? Giro l'invito anche a voi, veniteci a trovare, ascoltatori. Facciamo un bel happening ogni sabato, eh. Chi vuole viene. Un paio di mesi fa ha fatto una scommessa. Scommettiamo che la prossima telefonata sarà di una donna? Scommessa persa. Perché come tu dicevi, lui evidenzia... Regolare. Ragazzi, fatemi evadere gli obblighi di cronaca, perché se no me ne domandano subito ragione gli ascoltatori. Gli obblighi di cronaca mi portano a dirvi subito i risultati di Serie B, così non arrivano messaggi. Ci dici i risultati, 349-238-6666, ve li dico e vi precedo. Allora, l'Albino Leffe ieri ha vinto 2-1 a Livorno, Atalanta-Varese 0-0, Frosinone-Piacenza 1-1, Grosseto batte Sassuolo 1-0, Modena-Ascoli 0-0, Padova batte Crotone 1-0, Pescara-Empoli 0-0, Portogruaro batte Vicenza 1-0, Reggina-Siena 0-0, Torino-Cittadella 1-1, pochissimi gol, poi magari li conto. Siena 44 come l'Atalanta, Novara 43, Varese 39, Livorno-Reggina-Torino 34, il posticipo è Triestina-Novara. È stato bravo? È stato bene? Bravissimo. Allora, io ho già invece un messaggio che mi porta a un argomento di partenza, che è quello che praticamente volevo trattare anch'io. Sergio, che è un fedele ascoltatore di Milano, guidi taxi e scrive: Carlo, allora lo vinciamo o no questo maledetto scudetto? So che lui è milanista. I colleghi interisti stanno alzando la cresta nei posteggi. Da allora, come lo scrive, direi considera un collega tifoso. Sei milanista? No, lui è milanista. Vinciamo. Dice, lo vinciamo o no? Noi del, Carlo, noi lo vinciamo. Ma no, non è vero. No, più che altro è restaurazione. No, non ancora compiuta, ma l'area nel calcio milanese è quella. L'Inter col sorriso di Leonardo che mangi punti al Milan, che ha stranamente un po' paura, Massimo. Sì, io credo che il Milan abbia paura perché non è ancora convinto del tutto della sua base, no, di gioco, nel senso che sa che dipende molto da Ibrahimovic e poi via via dagli altri che a turno non danno le garanzie che tutti vorrebbero avere sul piano della stabilità. Poi alla fine la differenza rispetto all'anno scorso è che Milan con Ibrahimovic in più ha un punto in più rispetto alla stessa giornata dell'anno scorso, la Juve uguale, però il fatto che l'Inter non sia avanti fa cambiare tutti i giudizi. Poi non è colpa di chi sta davanti, chiaramente, sì. No? Inseguire è più facile, o no Andrea? No. Secondo me sì. Secondo me è più divertente. Sì. Sì, più divertente. Forse è un po' di pressione in più, però chi fa la lepre fa più fatica. Credo dipenda un po' da come la vive, come la vivono. A me piaceva di più inseguire che essere davanti. Ma riuscivi poi, ti sono riusciti tanti sorpassi, cioè in proporzione delle volte in cui hai inseguito, quante volte dunque, poi hai completato i sorpassi? Considera sempre che nel volley, qui playoff, la rincorsa nella regular season ha una rilevanza. Mi viene in mente invece di applicare questa rincorsa nella partita singola e ho trovato sempre molto piacevole l'idea di stare lì. A un certo punto di avere l'occasione di dire tanto, non c'è più nulla da perdere, adesso veramente posso provare qualunque cosa, che è una specie di liberarsi piuttosto interessante. Qualche volta si vince, qualche volta si perde. Sì, nella singola partita però appunto inseguire è certamente più facile perché non hai pressione. Sì, dipende un po', se gli altri ti stanno dominando è proprio faticoso, non sai neanche da dove ricominciare. È però vero che non ho mai amato l'idea di dover in qualche modo sopportare anche la pressione di essere considerato o di essere considerati favoriti. Non ho mai amato questa posizione. So invece che qualcuno ci si trova perfettamente a suo agio e riesce anche a far pagare agli avversari in contanti questo potere di essere favoriti. A me non piaceva essere favorito. E la paura di vincere com'è? La brutta bestia. Perché quella... vedi, Milan mi dà la sensazione, non so se anche a voi, però mi dà la sensazione di chi in questo momento si trova lì come quasi non se l'aspettasse, no? E ho la sensazione di quelli che urlano nel bosco per farsi coraggio, con ruggito di Ibrahimovic, con Cassano, con qualche manovra di mercato, però non è ancora il momento di parlare di paura di vincere, sono giocatori abituati a vincere, soprattutto a livello europeo. Però la paura di vincere è qualcosa con cui fare i conti. Assolutamente sì, cioè c'è una paura di vincere, anche qui io preferisco pensare all'evento specifico, al momento in cui stai per vincere la partita, e inizi a avere qualche preoccupazione che fino a un istante prima avevi tenuto sotto controllo. Nella settimana di attesa, in realtà sono poche le settimane perché gli impegni sono molto più frequenti, il problema è che siccome non si gioca sempre, occorre anche gestire questa sorta di cosa succede, come siamo messi, cosa accadrà, e non è piacevole dedicare energie a qualcosa che non sia il gioco, che non sia qualcosa di molto molto pratico. Ripeto, parlo sempre naturalmente della mia esperienza, a me piaceva moltissimo l'idea di poter dire dunque fatemi giocare la partita, quando sei lì dentro pensi solo a ciò che devi fare in modo molto concreto e molto pratico, il resto sono un po' chiacchiere, il resto se riesci a dedicarlo a studiare gli avversari, a pensare a te stesso, a pensare a cosa può veramente aiutarti, è molto interessante. Se pensi a se vinciamo, se perdiamo, come siamo messi, cosa accadrà, trovo siano energie buttate via senza nessuna ragione. Certo. Massimo, il Milan urla nel bosco per farsi coraggio, ha paura? No, non credo che abbia paura, credo che non abbia ancora la coscienza e la consapevolezza di essere veramente più forte. Poi sul fatto che inseguire sia più facile, nel nostro campionato la storia recente ci dice che sempre così. Chi ha inseguito è arrivato lì, non era l'Inter come quest'anno eventualmente potrebbe essere, era la Roma, arriva lì e poi nel momento in cui si trova poi ad essere davanti non ha la capacità di resistere, quindi la storia del nostro torneo è molto difficile gestire il sorpasso, tu arrivi lì a un millimetro, è quell'ultimo millimetro che ti manca e che è il più difficile da fare, perché cambia l'atteggiamento. Certo. Tu hai chiamato paura di vincere, paura del sorpasso. E a proposito, anche qui interessante questo coro univoco, l'Inter è la squadra favorita, forse nasconde anche il fatto che così sono convinti che dando loro responsabilità, certo, gli buttano pressione addosso. Certo, infatti sono. Sai, quelli del Milan fanno fatica a dirlo, no? Non gli viene come Fonzi, ti ricordi, quando doveva chiedere scusa. Però è bravo. No. Mentre tutti gli altri, anche ieri Ranieri, ha detto non scherziamo. Anzi. Ma Ranieri lo diceva anche l'anno scorso, quando era davanti a 3 giornate dalla fine. Sicuro. 4, quindi. Sicuro. Quello è un caso un po' a parte, anche di gestione della piazza. Si chiama spostare la pressione. Si chiama spostare la pressione, che nel nostro campionato è particolarmente importante. Ragazzi, molto divertente, ma ho il traffico e aspettiamo anche qualche ascoltatore. 800 24 00 24, numero verde. Parleremo poi anche di Cassano, parleremo di Prandelli che non vede l'ora di convocarlo, parleremo di allenatori, di palazzetti che crollano, di olimpiadi che forse arrivano, di un mondiale stranissimo che è bellissimo secondo me, che vedremo in Italia a novembre, questo è certo, a prescindere, perché è già stato deciso, l'olimpiade invece è ancora molto lontana. Insomma, state con noi. Dunque, Andrea Zorzi sempre qui vicino a me con Massimo Callegari. Ragazzi, Cassano, uno dei motivi che il Milan usa per farsi coraggio sono i primi assist di Cassano, che sembra davvero diventato un bravo bambino. Non so se è veramente così o se è tutta una bella recita, però per il momento funziona. È un po' lontano da una condizione completa, però è un giocatore importante. Ieri benedetto anche da Ibrahimovic, vediamo per quanto, ma il capo ha dato la sua benedizione. Massimo. Sì, ha fatto, io l'ho visto, mi sembra con l'Udinese, no? Quando ha fatto 2 assist negli ultimi minuti e poi ansimava, faceva fatica a correre dietro agli altri che esultavano, no? Quindi quello è stato il momento chiave che ci ha fatto capire che è lontanissimo dalla migliore condizione, però la può recuperare sicuramente giocando, e anche una partita di Coppa Italia che peraltro serve al Milan, magari come diceva Andrea, per non pensare, no? Per farsi un po' di coraggio, di autostima, può essere utile. Certo, poi bisognerà capire se lui riuscirà a mantenere questo equilibrio, che rimane sempre un punto interrogativo, nel momento in cui si sentirà al 100%, tutti gli diranno che è pronto per giocare e non partirà dall'inizio. Però ecco, mi sembra che il mercato del Milan, questo lo possiamo dire in maniera chiara, è orientato anche in questo periodo sul campionato, perché Cassano può giocare solo in campionato, sì. Emanuelson, che oggi è stato preso, ufficializzato, arriva dall'Ajax, se arriva adesso non può giocare in Champions perché lo ha già fatto con l'Ajax, quindi anche questa è un'indicazione del fatto che puntano moltissimo su questo. Si chiama realismo, si chiama realismo secondo me. E Prandelli che ha detto non vede l'ora di convocarlo Cassano, l'altro giorno, sì lo convoco, lo chiamo, adesso si gioca, adesso che non è più fuori rosa, non c'è nessun codice etico, ha trovato una squadra, si veste anche bene, ha la faccia da bravo ragazzo, i capelli a posto, eccetera. Lo chiamo? Certo, sicuro. Ma lì poi si penserà. Io ti dico la verità. Durante l'estate avevo pensato, ragionando sempre con la mente degli sport minori, che una squadra come il Milan, costruita prendendo dei pezzi così importanti, ma apparentemente così difficili da amalgamare, non potesse avere futuro. Dicevo, no dai, questa è una campagna di acquisti da folli, in cui spendi delle quantità di soldi mostruose, e poi come fai a metterli insieme tutti quanti? È primo in classifica, con un bel vantaggio. Evidentemente questo conferma che lo sport è un calcio, è uno sport evidentemente un po' diverso da come me l'immagino io, e poi che costruire una squadra organica, armonica nel calcio segue regole un po' diverse da quanto non avvenga in altre discipline. Sicuro. Ascoltatori, primi due di oggi, uno da Bologna e l'altro da Napoli. Prima Leonardo da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Vi faccio i complimenti, soprattutto alla radio in generale, lo ascolto spessissimo. Ma cosa sta succedendo a Bologna? A Bologna neanche un mese, il 23 di dicembre si sono insediati quelli. Pandori, panettoni, zamponi, e adesso siamo qui già in quaresima. Più che dei zamponi eravamo arrivati già dei gran caffè, ma... poi dopo mi ha smesso di berlo da ieri sera, no, continuiamo a berlo perché poi da quello che abbiamo capito, che è un po' è stato confusionale la cosa, sembra che poi ci sia stata solamente una marcia indietro dal punto di vista della presidenza, ma rimane un socio di grande importanza. No, io volevo fare volevo dire solo una cosa molto banale, se vogliamo. Lì prima parlavate, perché purtroppo si parla sempre, purtroppo per fortuna si parla sempre di Milan e di Inter, perché Bologna in realtà anche di marketing per le radio si parla poco, siamo in pochi, quindi parlate più di città grosse. Ma io ci ho provato, è lei che vuol parlare di Milan e Inter, eh? No, io no, di Bologna, perché purtroppo anche c'è poco da parlare, perché in effetti no, parlando di sport, dicevo, parlavate prima tra Milan e Inter di paura di vincere, di vincere, per me è la paura. Io sono un modesto tennista, per me mi capita spesso di aver paura di perdere, non di vincere. Cioè la sindrome del braccino, facendo una, viene quando si ha paura di perdere, non di vincere. Quando si ha voglia di vincere, si vince, e io quella voglia di vincere adesso la vedo particolarmente nell'Inter, cioè nella consapevolezza dei mezzi, cioè quando giocano. E quindi niente, sento spesso parlare di paura di vincere, secondo me ecco è una brutta espressione. Per me c'è la paura di perdere, ecco, soprattutto, cioè di non vincere. Cosa che non, cosa che non ci dovrebbe essere mai. Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, dica. Gentilmente, io le volevo proporre una cosa, c'è questo. Noi a Napoli siamo contentissimi di come si sta portando in Napoli e con le forze che abbiamo, che poi sono le forze del nostro presidente, molto, diciamo, umili. Certamente non si può mettere alla pari con Moratti, il re del petrolio, o con la Fininvest, è chiaro. E noi siamo contenti, quello che arriverà per noi, cioè, però le dico una cosa, perché giocatori che vogliono venire a Napoli e le squadre non le mollano, mentre quando si tratta di Inter o di Milan li mollano subito. Solo questo voglio sapere. Beh, insomma, mi sembra che il Palermo Cavani l'abbia mollato, no? Il Palermo Cavani l'abbia mollato e poi li mollano dietro pagamento di quello che viene chiesto. È chiaro che andare a prendere un giocatore dall'Udinese, ad esempio, si è parlato di Inler, con uno come Pozzo, devi andare lì con i soldi che chiede in mano, perché sennò il giocatore non lo dà al Napoli, non lo dà al Milan, non lo dà all'Inter, abbiamo le prove, no Massimo? Sì, vale per questo discorso specifico, vale per Ogbonna, che era un'alternativa in difesa del Torino, che per il Torino è un giocatore importante, vale per un altro motivo, che poi è sempre quello economico, ma non di acquisto dal club, ma di ingaggio del giocatore, per il fratello di Diego Milito, Gabby, che è andato al Malaga dal Barcellona, perché comunque c'è anche un tetto di ingaggi e alla fine anche questo equilibrio, anche a questo equilibrio De Laurentiis è sempre molto attento, quindi non è colpa degli altri, è una questione di mercato. No, ma anche perché credo che in questo momento Napoli sia una delle piazze più ambite dai giocatori, da Napoli chiama anche Gianni, dica, buonasera. Buonasera a tutti, io volevo porre due domande, uno su Cassano che penso che da un punto di vista però gli diamo troppa importanza, perché è un giocatore che ha avuto tantissime possibilità in passato, ma si è sempre comportato da un punto di vista di comportamento malissimo, quindi anche da parte dei giornalisti e tutti, portare sempre in alto questo giocatore mi sembra un assurdo, perché poi non vedo che comunque è un giocatore che fa la differenza in tutte le partite, sì, ha degli sprazzi, però poi alla fine non è che fa, è un fenomeno, insomma, no? Quindi sotto questo aspetto qua. Ci sono tanti giocatori, io dico anche a Prandelli di puntare su dei giovani molto validi che possiamo ritrovarci nel futuro, ma non sicuramente su Cassano che ti farà sicuramente 5-6 partite con comportamento di umiltà e poi dopo sicuramente si comporterà di nuovo come, perché se uno nasce tutto anche può se, diventare no, certo, anno, anche se tanti giocatori in grado di essere decisivi italiani, eleggibili per la nazionale italiana, io non è che ne vedo, quindi no, non è che ce ne si sono, torna lì perché spazio a dei giovani con un comportamento più corretto che sicuramente a lui che in passato ha creato problemi sicuro in tantissime squadre, sicuro, quindi voglio dire continuare a dargli un'importanza a questo giocatore che da un punto di vista tecnico forse non ce ne sono in Italia come giustamente ha detto lei, però il comportamento e l'umiltà in campo sicuro si deve dimostrare anche per il gruppo che si va a creare, sicuramente questo è sicuro, probabilmente ripeto, questo può essere un sintomo di debolezza, no? Da parte del nostro movimento, perché se siamo a rincorrere le bizze di questo qui evidentemente non c'è molto di meglio. C'è di quell'altro che sta a Manchester adesso. C'è le bizze di quell'altro che sta a Manchester. Provo di, ma se fossi un compagno di squadra di Cassano o l'allenatore, mi piacerebbe poter parlare il meno possibile e provare a lavorare con tranquillità, cioè visto che tutto si è fatto, si è provato a Roma, a Madrid, a Sampdoria, adesso idea, facciamo un po' di silenzio, vediamo come gioca, sarebbe la richiesta di chi è coinvolto direttamente. Mi rendo conto che la stampa in realtà utilizza questo perché è una delle ragioni che ti permette di parlarne, però è sintomatico anche di quanto poi sia difficile nel mondo del calcio poter lavorare in modo efficace, perché il modo migliore per Cassano, per i suoi compagni, per i suoi allenatori è quello di fare silenzio. Hai l'opportunità, vediamo cosa succede. Non è quello che accade, ripetiamo, perché il mondo del calcio è questo. Infatti Adriano Galliani quando ha presentato Cassano ha detto basta parlare delle cassanate, parliamo di quello che fa sul campo, però le due cose vanno di pari passo. E poi se fosse valido il discorso dell'ascoltatore di Napoli, non solo Cassano non dovrebbe o non avrebbe dovuto anche in altri periodi non andare in nazionale per una questione comportamentale, ma per quello che è successo alla Sampdoria, teoricamente non avrebbe dovuto neanche ricevere una richiesta, no? Da club importanti, perché alla va fine che ha migliorato la sua carriera. Sì, va detto. Questo, ragazzi, uno fa così perché ha la possibilità. Sì, certo. Di andare a star meglio nonostante abbia fatto qualcosa che è totalmente deprecabile. Sì, no, non c'è dubbio. Ma va detto che Cassano è personaggio, è inutile star lì. È uno che non è mai banale quando parla. È uno che per le sue uscite un po' bizzarre comunque fa discutere. E anche lì non ce ne sono mica tanti di personaggi nello sport di oggi. Non ce ne sono mica tanti. Ma Andrea, ragazzi, adesso basta. Fermi tutti, perché voglio parlare di un'altra cosa prima di fermarci. Poi abbiamo Alessandro Labarra e Ruggero da Roma, altri ascoltatori in linea. Però voglio tornare non al Bologna, ma alla friabilità del nostro sport. Del nostro sport, perché in questi giorni, ringrazio Andrea Zorzi per averlo ricordato, è caduto un compleanno un po' triste, se mi permettete. Sentiamo questa scheda di Cristiano Bartelloni. "26 anni fa, Milano perdeva il suo gioiello. Il 17 gennaio 1985, la nevicata del secolo faceva collassare il palazzetto dello sport di San Siro. Il giorno dell'inaugurazione, Mike Bongiorno salutava la folla con il suo celebre "Allegria". E per circa 8 anni fu davvero così. Girando per la rete, si capisce che il partito dei nostalgici è ben rappresentato. Milano ha perso uno spazio che la cittadinanza sentiva proprio. A testimonianza vi stanno i numerosi film che ambientano scene di fronte all'arena, come "Eccezionale veramente", o che ne fanno il set privilegiato come la Baraonda Passioni Popolari di Florestano Vancini, girato durante la 6 giorni di ciclismo. Il profilo a sella di cavallo, divenuto celebre, è stato imitato in molti altri palazzetti, tra cui, il più importante, l'Olympic Saddle Dome di Calgary. In quello stesso 17 gennaio, Milano perdeva anche il velodromo Vigorelli. Venivano così cancellati in una notte entrambi gli spazi in cui negli anni si era organizzata la 6 giorni, divenuta un appuntamento tradizionale per la città e per tutti gli appassionati di ciclismo. Dentro l'arena del palazzetto, il belga Patrick Sercu e l'olandese René Pijnen furono tra i pochi a unire Saronni e Moser, con cui, in edizioni diverse, fecero coppia. Contro la chiusura dell'impianto si aprirono 10 anni di progetti. Parole e soldi sprecati. Tanti. La storia del palazzetto si mischia a mani pulite. La natura, però, non aspetta il parere dei giudici. E sull'area lasciata libera dal palazzetto nasce un bosco che diventa sempre più fitto. Sembrerebbe il finale felice di una storia, ma anche questa volta si sceglie la peggiore delle opzioni possibili. L'arena verde, 21.000 metri quadri, sparisce lasciando spazio a una strada riservata alle forze dell'ordine, utilizzate in occasione delle partite interne di Milan e Inter. L'intera vicenda ha lasciato un segno nella memoria della città. Il ricordo rimane vivido e non si è fatto seppellire né da un metro di neve né da 26 anni di fango. Dunque, quel palazzone a forma di sella di cavallo, o arca di Noè, insomma, non so se Massimo Calegari c'è stato per ragioni anagrafiche. No. Sei giovane tu. Sì. Io ero militare quell'anno e spalavo la neve a Bologna, dentro il campo da tennis, fuori dal campo da tennis, per farci impegnare. Invece qui a Milano questa sella di cavallo raccolse un sacco di neve. Provarono addirittura a scioglierla con l'acqua calda e peggiorarono la situazione, perché certo, si ghiacciò anche quella. E questa roba è venuta fuori perché, insieme con Cristiano Bartoloni, stiamo cercando un po' i luoghi dello sport che hanno fatto l'Italia. E quindi per Milano questa storia è una storia infinita, importante. Poi, insomma, si parlava della 6 giorni. Io ricordo, sì, quando ero a quel punto piccolino, ma era un momento straordinario di ciclismo. Era quello su strada, ma era anche quello con Sercu, con Maspes. Facevano la suspense. Sì, Stavano lì, sì, delle ore bellissime. Veramente. No, ma era anche un impianto molto scenografico, molto, molto bello. Ricordo che lì ho visto le prime partite di pallacanestro, dell'allora Billy, di Coach Dan Peterson, eccetera eccetera. Quindi è un impianto che è rimasto impresso nella memoria dei milanesi, in un luogo, a me, quelli vecchi come me, in un luogo che poteva diventare il vero centro, l'anima dello sport, perché San Siro era a pochi metri, certo. Invece poi si è spostato un po' verso il Forum, ma lì una storia è completamente diversa, perché è l'iniziativa privata che ha assolto dei compiti che... Sì, prima Palatrussardi, poi questo balletto tra Palatrussardi e Palalido, poi è stato Forum, eccetera eccetera. La storia dell'impiantistica milanese è questa. No, è curioso che cada questo compleanno proprio nei giorni in cui Roma rilancia per l'Olimpiade, molla il Gran Premio, basta, non ci pensiamo più, rilancia per l'Olimpiade del 2020. A me tutte le volte vengono i brividi. Intanto per restaurare il Colosseo serve il Granaio della Valle. Sì, serve un sacco di soldi, su questo non c'è dubbio. Però in questi giorni ho avuto l'occasione di vedere le immagini del film sulle Olimpiadi del 60 a Roma. Sarà il fascino del bianco e nero, sarà quello che volete, ma la maratona corsa di notte con Bichila che vince scalzo, con le torce che illuminano via Appia, la lotta all'interno della Basilica di Massenzio, e queste cose sono immagini che non sono mai più ripetute nel corso di qualunque altra edizione delle Olimpiadi. Dopodiché negli ultimi anni è diventato, vediamo il caso di Atene, anche un grande rischio organizzare un'Olimpiade, perché la Grecia è in queste situazioni economiche anche per i costi per realizzare quell'Olimpiade. Cioè, leggevo oggi questa intervista di JK, cantante di Jamiroquai, britannico, un po' controcorrente, un po' a leggere lì annoiato dalla vita, che dice, molto critico: la Gran Bretagna spenderà un sacco di miliardi per organizzare i giochi olimpici del 2012, per 3 settimane di gare, uno spreco, finiremo nei guai. Le Olimpiadi per un paese sono il bacio della morte, caro Massimo. Sì, però io quando ho iniziato a fare questo lavoro stupendo a Eurosport, avevo seguito le Olimpiadi da qui, però naturalmente con tutta l'attenzione necessaria per commentare gli avvenimenti a Sydney, e mi ricordo che lì organizzarono la cosa in una maniera eccezionale, e tantissimi impianti, mi ricordo quello del beach volley perché avevo seguito nello specifico, erano temporanei, cioè erano strutture che poi dopo le 2-3 settimane di avvenimenti venivano rimosse, e anche le zone dal punto di vista naturalistico, tipo la spiaggia dove Bondi si svolgevano Beach. Bondi Beach, erano poi tutelate in questo senso, quindi dipende anche da come si lavora. Pensa che a Londra stanno organizzando i primi impianti riciclabili, sì. Pare che alcune strutture verranno riutilizzate poi 4 anni dopo a Rio de Janeiro, e Londra sta facendo per quanto possibile un lavoro straordinario per fare sì che non sia l'Olimpiade più grande, cosa che non può essere, sì. Di Pechino, dopo Pechino si va, sì, si trova un'altra strada. Stanno facendo un ottimo lavoro, lo chiamano capitale sociale, che è questa cosa difficilmente definibile, ma significa che lo sport non è solo un costo, è qualcosa che mette in moto meccanismi ed emozioni straordinarie. Sicuro. Può essere una grande opportunità, può essere anche il bacio della morte se non ci pensi per bene a cosa vuoi fare. Però inoltre, poi chiudo, perché ti vedo insomma che hai fretta. Devo parlare con Alessandro Ruggero prima di fermarci un attimo. No, velocissimo, anche i mondiali per noi sono stati il bacio della morte, perché gli stadi che ci ritroviamo, mondiali di calcio, sono quelli del 90, Bari, Verona, anche San Paolo, quasi tutti a parte San Siro. Baciamo molto, mi sa, in Italia. A parte San Siro, Firenze e Bologna, mentre altri paesi hanno sfruttato i mondiali di calcio e mondiali di sport specifici, quindi non olimpiadi, in maniera diversa e migliore. Certo, adesso ci fermiamo allora un attimo, così mi ordinano, poi parleremo subito con Alessandro da Bari, Ruggero da Roma, e poi parleremo invece di un evento che in Italia ci sarà il prossimo novembre. Sì, dopo. Sì. Rieccoci, sempre Andrea Zorzi e Massimo Callegari qui con me, Alessandro da Bari, Ruggero da Roma, mi scuso per l'attesa, ma il sabato è così, mi fa molto piacere però parlare con gli ascoltatori, ci fa molto piacere parlare con gli ascoltatori. Alessandro, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo dire di Leonardo e di Milito. Di Leonardo, sì. Mi sembra un po' semplicissimo ridurre al fatto che sia simpatico, che sia insomma una persona inserita. Secondo me sta dimostrando anche da un punto di vista tecnico una discreta preparazione, perché l'Inter ha cambiato modo di giocare, ha cambiato anche giocatori, perché ovviamente con 5 riserve in campo fisse non puoi giocare. Però adesso c'è molta più profondità e sono curioso di vedere Sneijder in, certo, in quest'ottica. E Milito, poi me ne sono accorto l'altra sera dopo la partita col Cesena di quanto sia importante. Pensavo che fosse soltanto un grande goleador, invece, e questo è pazzesco, perché fa il pivot senza esserlo. Ah, certo. Non certo. Ha la struttura fisica di 2 metri. No, però è quello che ti fa salire la squadra. Quando prende la palla fa salire gli altri. No, ma è un giocatore anche di un'intelligenza tattica mostruosa. Sentiamo anche Ruggero da Roma, poi delego a Massimo Callegari una risposta cumulativa. Dica, Ruggero. Sì, buonasera. E complimenti per la trasmissione. Io chiamo da Roma, sono un tifoso della Lazio e volevo fare una riflessione con voi sul campionato, che fino a questo momento la Lazio sta conducendo, secondo me, molto bene, soprattutto se pensiamo a quello che era stato lo scorso di campionato. E rispetto a questo volevo domandare a voi se forse, vista il particolare andamento del campionato con squadre come l'Inter che hanno balbettato nel girone d'andata, la Roma con evidenti crisi societaria, la Juventus che non va a mille, se forse Rodino non avrebbe potuto fare uno sforzo economico per comprare una punta di eccellenza, un po' come ha fatto con Hernández a centrocampo, per tentare veramente quest'anno di far saltare il banco. Sì, perché secondo me questa Lazio, così com'è, se continua con determinazione e un pizzico di fortuna in più, potrebbe ambire anche insomma al secondo o al terzo posto. Però se avesse fatto uno sforzo, secondo me, in avanti, siamo sempre lì a chiedere soldi ai giocatori e ai presidenti. Secondo me lo Tito adesso ha preso Sculli. Come bisogna anche sapersi accontentare. Lazio certamente sta facendo più di quanto era immaginabile. Poi dire adesso sfruttiamo l'occasione, indebitiamoci fino al collo e proviamo a vincere uno scudetto che probabilmente non arriverà lo stesso, anche fosse avessero preso un grande attaccante, a parte che la questione Zarate è ancora da risolvere, però mi sembra chiedere un po' troppo. Quanto alla simpatia di Leonardo, la sua preparazione tattica, ma anche quanto alla Lazio, Massimo. Allora, parto dalla fine, dalla Lazio. Hernanes è stato un investimento molto oneroso, perché la Lazio l'ha pagato il massimo che poteva pagarlo per il livello cui era arrivato lui in Brasile, per le possibilità che San Paolo aveva di venderlo, l'ha pagato tantissimo, 14 milioni circa. Sì. Poi Raí è stato bravissimo, perché lui giocava più indietro, ha capito che nel nostro calcio non ce l'avrebbe fatta, l'ha messo più avanti e lì ha fatto la differenza. Però in una squadra come la Lazio, che ha un gioco non così organizzato sul piano offensivo, serve un centravanti tipo Floccheri, con quelle caratteristiche, che sia un regista offensivo a suo modo, cioè molto intelligente, molto bravo a muoversi, come Milito, che in questo eccezionale, la sua presenza aiuta molto lo sviluppo del gioco dell'Inter, assieme a quella di Thiago Motta è fondamentale per questo. Leonardo non è ancora giudicabile da punto di vista tecnico e tattico, ma da altri punti di vista sì, cioè della capacità psicologica, della carica e della capacità di immedesimarsi in un ambiente che era l'opposto rispetto a quello in cui hai vissuto per 13 anni. Sicuro. Voglio parlarvi di un'altra cosa. Sei Matt Johnson? Sì. Questa è la tua tavola. Hai fatto la cosa più eccezionale che io abbia mai visto. Volevo dirti solo questo. Tienila. È tua. Cosa? Se capita un'altra occasione, almeno potrai usarla tu. Non sono diventato improvvisamente Franco D'Assisi, non avrete neanche riconosciuto il film. È un film che tutti abbiamo visto, Mercoledì da Leoni. Non so se Andrea Zozzi, che certamente ha visto il film, vada in surf. No. Massimo? No. Un po' di windsurf. Eh? Tra l'altro sono più alto io dell'albero. Devo portare il bomba a altezze. Però ragazzi, è l'anno giusto per provarci. Tutti insieme vengo anch'io. Dobbiamo provarci perché è incredibile. Quando ho saputo questa cosa mi ha subito affascinato. Perché in Italia a novembre, quindi manca ancora molto tempo, avremo modo di riparlarne, ci sarà un evento che non pensavo possibile sulle nostre coste. Tra l'altro per la prima volta nel Mediterraneo c'è il mondiale di surf. I 32 migliori surfisti del mondo, quelli che vediamo nei film, arriveranno in Italia e si giocheranno in tappa unica chi vince campione del mondo, no? A Levanto, in Liguria, per due settimane. Tutta questa iconografia che vediamo nei film sarà lì, perché la FIFA del surf, che si chiama SP, ha deciso di organizzare questo mondiale in Italia, ha affidato l'organizzazione di questa tappa a un'agenzia italiana, e tra poco ci facciamo raccontare che cosa diavolo sta succedendo e che cosa diavolo succederà sulle nostre coste alla fine di novembre. Si scrive Mario da Milano: grazie, il mio film preferito Mercoledì da Leoni. Tra l'altro sarà il mondiale longboard, quindi tavola lunga, che è esattamente quello di un Mercoledì da Leoni. Ma proviamo a capire cosa succede. Allora, vi ho detto che c'è una società italiana che è incaricata di curare la realizzazione di questo evento. L'amministratore delegato di questa società, che si chiama Reset, è Max Catalani. Buonasera. Ciao Carlo, buonasera. Ciao a tutti, buonasera ai tuoi ospiti. Ci spieghi cosa sta succedendo? Ma guarda, io innanzitutto sono lusingato, perché mai mi sarei aspettato un'introduzione del genere. Cioè, che sei senso? Andato a prendere ma mica cult, io, Mercoledì da Leoni, voglio dire, dobbiamo parlare del, è stato anzi degli ultimi 40 anni di questo sport. Mio caro, banale, quasi banale, no? No, e poi sono contento di aver capito che anche tu ti appassionerai a questa cosa, quindi saremo in due a cavalcare le onde, no, di Leoni. Che in due? Qua siamo già in tre. Io, Andrea Zozzi, Massimo Calegari, e veniamo tutti e tre. Sì, serve un trainer specializzato per bene. Molto bravo, sì. Ne serve uno bravo. Io innanzitutto ti ringrazio, perché se in Italia si parla anche di altri sport oltre che al calcio, oltre che di calcio, lo dobbiamo a giornalisti come te che danno spazio ad altre cose oltre a... Andrea Zozzi, mica meglio, cosa c'entra? Niente, semplicemente hai detto benissimo tu, novembre di quest'anno ospiterà questo evento che è la finale mondiale di campionato di longboard, che è praticamente una declinazione del surf. E io innanzitutto parto con un ringraziamento, cioè ringraziando ASP, che è la, diciamo come hai detto tu bene prima, la FIFA, cioè l'Associazione Mondiale di Surf, che ci ha scelto, ci ha incaricato di organizzare questo evento, e per noi davvero è un onore e un onere importante. E, Levanto perché? Perché Levanto sicuramente ha, e nel periodo di novembre c'è l'apice assoluto di questa cosa, ha il mare migliore in Italia per poter fare questa specialità, che è un po' diverso dal surf tradizionale che tutti conosciamo, con l'onda alta, ha bisogno di un'onda particolare, e Levanto ha esattamente queste caratteristiche soprattutto nel mese di novembre. Altro ringraziamento sicuramente al comune di Levanto, che ci, il comune, la regione, sì, beh, Liguria, certo, la provincia di La Spezia, ma penso che sia un evento, penso che sia un evento importante anche per loro, con ricadute importanti. Andrea, te l'aspettavi tu di vedere i surfisti in Italia? No, infatti evidentemente devo riaggiornare il mio immaginario su Levanto, perché immaginavo questa località in Liguria, ma non mi immaginavo potesse essere teatro di una finale di questo genere. A tal proposito, colgo l'occasione per chiedere quali sono gli altri luoghi in Italia in cui si può praticare surf sia con tavola lunga che quella più classica. Tra l'altro ci sono dei luoghi sicuramente in Sardegna che insieme a quella parte di Liguria è la, il luogo ideale per affrontare questo tipo di disciplina. Chiaramente noi nell'immaginario collettivo di anche non degli appassionati, quelli che pensano al surf si immaginano sempre le immense onde delle Hawaii piuttosto che di altre coste oceaniche del, de, del mondo, e invece anche in Italia ebbene sì, è possibile praticare questa, questa disciplina con ottimi risultati. Massimo, tu vieni a vedere? Certo, sì sì, quando voi mi invitate io rispondo sempre. Andiamo tutti, facciamo guida Andrea Zosi, che tanto sarà strada, è sempre in giro. Dobbiamo stare in stand by, perché siccome non si sa bene quando è il giorno ideale, questo mi pare di capire, hanno 3 settimane giusto di tempo per... Sì, esattamente, un waiting period di... orientativamente saranno le 2 settimane centrali di novembre, però questo è anche il bello del surf. È uno dei pochi sport dove l'uomo purtroppo non può farci molto, nel senso che dipendiamo tanto dalla natura, e se in quel periodo Eolo e il mare decideranno di far sì che si possa mettere in atto questa finale, ci vorrà l'onda giusta per poter fare questa finale. Quindi a novembre tutti pronti, 24 ore al giorno, telefono acceso. Esatto. Appena arriva il messaggio da Levanto, io parto, la chiave di te a Milano, sì, lo passiamo appena dopo lui a Pavia, giusto? Sì. Oh, andiamo giù. Abbiamo... No, ma io preferisco prendere ferie lunghe, mettermi lì e aspettare. Pensa quanti giornalisti andranno là per lavoro il primo giorno sperando che il giorno giusto sia dopo 2 settimane. Avete visto pochi film, avete poca fantasia, partenza, io mi metto lì con le birre, sto lì a tutto fuoco a vedere i tramonti, a aspettare l'onda perfetta. Poi... Carlo, mi permetti solo di fare un'ultima piccola... Sì, certo. Allora, noi, come tu sai, per la buona riuscita di una manifestazione del genere abbiamo anche bisogno dell'aiuto, del sostegno degli sponsor, che naturalmente hanno una parte importantissima in questo evento. Da qualche mese ci stiamo già muovendo con aziende alto spendenti e non, e ci rendiamo conto che c'è la volontà da parte di queste aziende di investire su qualche cosa di diverso. Ma certo, questo lo immagino e un ringraziamento particolare mi sento di farlo soprattutto alle persone che stanno lavorando a questo progetto, e che grazie a loro, insomma, e sono certo che ci sarà un ottimo risultato. Devo ringraziare queste persone che sono i ragazzi che opereranno su Levanto, Area 51, Alessandro Dini, e poi i miei ragazzi qua di Milano, Mauro Dones e Filippo Iarac, che stanno facendo un lavoro fantastico. Me li immagino. Grazie a Max Catalani. Grazie a te, Carlo, saluto io, a tutti. Io ho un altro ospite, che è assessore allo sport della Regione Liguria, perché voglio capire, non c'è solo Genoa e Sampdoria, arrivano anche i surfisti adesso. Gabriele Cascino, buongiorno. Buongiorno a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori, buongiorno. Come la mettiamo con questi surfisti? Siamo felicissimi di aspettare i mondiali nella nostra regione, e quindi, come sentivo, a questo punto possiamo paragonare la Liguria, le nostre coste, alle coste oceaniche delle Hawaii, no? Sì. Abbiamo tutti in mente i film che ci portano su questi scenari naturali imperdibili, quindi anche il nostro territorio, a mio parere, ha questi scenari imperdibili, sia dal punto di vista naturalistico. A fianco abbiamo le Cinque Terre, insomma, quindi una meraviglia mondo. E quindi Levanto merita questo avvenimento, e siamo felicissimi. Beh, certamente sarà un'occasione importante, io credo, anche per il territorio. Intanto, sempre per rimanere in ambito sportivo, però più genovese, stiamo aspettando il derby dopo la neve. Immagino lei. Non ho capito, mi scusi. Stiamo aspettando il derby di Genova dopo la neve, immagino anche lei. Sì, sicuramente, benché sia interista, devo confessare in questa sede. Come fa a essere interista? Sono interista, vabbè, ma io sono di Taggia, vicino a Sanremo, quindi non sono proprio un genovese. La Liguria non è solo Genova, è una terra, insomma, che va da Ventimiglia a Sarzana. Però, insomma, stiamo aspettando, perché poi è molto sentito su Genova, sulla Liguria. La maggior parte sono tifosi della Sampdoria, del Genoa. La neve ci ha un po' così sorpreso, però, insomma, si scaldano i motori e si accende la passione. Lo aspettiamo sicuramente con tanta trepidazione e attesa, ecco. Io la ringrazio, grazie Gabriele Cascino, assessore dello sport della Regione Liguria, e poi c'è Massimo Callegari, che sarà in studio a Medias quella sera, no? per il derby. No, credo ci sarà Michela Calcagno, perché lei gestisce le partite singole, io la domenica pomeriggio con tutte le... Ero in studio quella domenica in cui l'assessore ha detto che la neve li ha sorpresi, nonostante le previsioni fossero... devastanti. Derby di Genova sospeso per neve, ci mancava. Sì, però guarda, Graziano Cesari, che è di Genova, che lavora lì con noi, era lì nei giorni precedenti, mi sembra fosse weekend, era il weekend del Mondiale per Club, io ero in studio per il Mondiale per Club. Il sabato lui disse, domani quasi sicuramente non giocano perché arriva una bufera di neve. E invece hanno deciso alle 7 con l'arbitro lì, con la gente già che stava per entrare. Senti, vi faccio vedere questa foto, Sport Week di questa settimana. Cioè, paura, eh? Un'inchiesta, si gioca in qualsiasi tempo, no? Partita di football sospesa negli Stati Uniti, caso più unico che raro, Eagles Minnesota Vikings, partita rinviata proprio per impraticabilità delle strade. E il governatore della Pennsylvania che dice: il rinvio della partita è una decisione che dimostra come l'America stia diventando un paese di mollaccioni. C'è una bella storia qui, Green Bay Packers, sì. Una finale di Super Bowl giocata a meno 13, meno 15, meno 20, non me lo ricordo, e c'è una bella storia su quanta paura avessero ad uscire con quel freddo, perché i Green Bay erano abituati, gli avversari di cui non ricordo il nome invece, e non l'hanno sospesa, perché quella era l'America, come dicono loro. Inverno, tempo da eroe. A me piacciono le partite con la neve, a te? Sì, quasi. Bellissime. Col pallone arancio, sì, sì, sì, bellissime. Ah, poi bisogna essere anche bravi, cioè, perché ormai stiamo andando verso l'era del sintetico, ma... bisogna essere bravi, no? Giocare bravi con la pioggia, la neve, bravo, caldo. Quelli bravi li vedi sui campacci, perché sennò son buoni tutti, o quasi, insomma, quasi, quasi. Massimo, grazie. A presto, grazie a voi. Grazie Massimo Callegari, ad Andrea Zorzi, Giorgio Lucchi in redazione, Paolo Corleoni in regia. Con lo sport ci troviamo domani pomeriggio dalle 5 alle... no, dalle 5, dalle 4 e mezza alle 7, altro che dalle 5. 4 e mezza, 7 qui, tutti.